24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:32 minuti, cari ascoltatori, eccoci con 24 mattino in diretta fino alle 9. Parliamo di scuola, è il nostro sondaggio di oggi alle 8:30, perché c'è questa proposta, no? Tutti come negli anni 60, ma che entrare a scuola, riaprire le scuole e tornare sui banchi l'8, il 10, il 12 settembre? Facciamolo a ottobre, dopo il 30 settembre. Questa è una proposta di legge. A scuola più tardi, da ottobre, magari anche per favorire il turismo, visto che settembre è un mese, magari non in tutta Italia, ma comunque splendido. E dunque, facciamo così. Il ministro Gelmini ha detto, perché no, discutiamone. Si è aperto subito un dibattito polemico. Che ne pensate? A scuola a ottobre dovete votare su radio24.it nell'home page bianco o nero. Il nostro sondaggio di oggi, ne parleremo alle 8:30. Questo è un tema sui giornali, ma i giornali oggi sono monopolizzati dalla manovra. In primo piano, martedì 25 maggio è il giorno della manovra anticrisi, che verrà approvata presumibilmente. Oggi ci sarà un giorno di grandi incontri anche di Berlusconi con le parti sociali, con tutte le parti interessate, e poi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via alla manovra. E allora le aperture sono tutte declinate su questo: controlli incrociati sui redditi e l'apertura del Sole 24 Ore, dunque sull'evasione fiscale, attenzione, una novità in arrivo. Il governo, ora sacrifici duri per il Corriere. La Repubblica, manovra, annuncio shock di Letta, sacrifici duri o è rischio Grecia. Per Libero si gioca sulla bandiera di Forza Italia, Forza taglia. E c'è la foto di Giulio Tremonti, Tremonti zero sconti. La Stampa, Letta, ci aspettano duri sacrifici. Per Il Fatto, Palazzo Chigi, 9 milioni per le auto blu, ci si concentra su questo elemento. Il Giornale, ecco la verità sull'evasione, riprende i 120 miliardi di evasione stimati e lanciati ieri dal Sole 24 Ore. Il Messaggero, via la manovra dei sacrifici. È così, nella manovra sacrifici pesanti. Certo, ha fatto molto scalpore ieri il sottosegretario Gianni Letta, ha detto ci saranno sacrifici pesanti. Dino Pesole ne parla a pagina 3 e a pagina 2 del Sole 24 Ore. Oggi il Sole 24 Ore è imprescindibile, tutte le prime pagine sono tutto quello che si prospetta. Tra l'altro vi preannuncio, alle 9 se ne occuperà Oscar Giannino. E dunque ci saranno i dettagli, ormai i dettagli si vanno profilando, no? Tutte le indiscrezioni sono sempre più certe. A pagina 2 il Sole 24 Ore le mette un po' tutte. Per esempio ci sono delle novità sulla sforbiciata degli enti pubblici, chiudono i battenti Lice e Lisae. C'è il tetto della tracciabilità degli assegni da 5-7 mila euro. Dovrebbe esserci questa sanatoria per chi emerge entro l'anno nelle case fantasma. Questo è un grande leitmotiv del Sole da tempo, no? Quando si sono scoperti 1,4 milioni di unità immobiliari che al catasto non risultano. Incredibile queste cose, solo in Italia. E poi ci saranno il taglio agli stipendi del 10% dei ministeri, il taglio ai ministeri secco pare del 10%, insomma tanti particolari. A me quello che interessa, visto che i particolari poi se ne occuperà Oscar Giannino e poi li scopriremo nel corso della giornata, immagino nell'approvazione, pare ci sarà anche una conferenza stampa del presidente Berlusconi a fine giornata, dunque attorno alle 18-19 a ridosso dei telegiornali, per spiegare che cosa c'è in questa manovra. Napolitano dice si facciano i sacrifici ma siano equi. Le pensioni, Davide Colombo a pagina 7 del Sole dice attenzione, dovrebbe saltare il contributo delle pensioni d'oro, il contributo diciamo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro, ma verranno tagliate certo le finestre per andare in pensione dall'anno prossimo, bisognerà vedere in che modo. Quello che mi interessa è l'aspetto politico. Tutti ormai fanno capire che è passata la linea Tremonti. Lo dice chiaramente Il Foglio con Ferrara, Il Foglio di Ferrara, in un editoriale in prima pagina. Ecco cosa prevede il taglio ai cuci contabile dell'agenda tremontiana. Il taglio ai cuci prevede varie cose e finisce l'articolo così: è prevalsa la linea tremontiana. Ebbene sì, perché questo era il nodo. E Berlusconi voleva in qualche modo fare una cosa più graduale. Tremonti ha detto: bisogna agire subito. E ieri il fatto che Letta sia andato a dire ci vogliono interventi rapidi e speriamo che siano temporanei, beh, vuol dire che è passata la linea Tremonti. Lo dice chiaramente in prima pagina di Repubblica. Francesco Bei: l'affondo di Tremonti convincerò l'Europa. Super Giulio ha vinto su tutta la linea. È questa la sintesi di una battaglia politica che c'è stata ieri, tanto che Francesco Bei racconta anche di una riunione nella quale, per dire, il clima abbastanza teso, no? Presenti alcuni avversari storici di Tremonti come Renato Brunetta e Mario Baldassarri, che protestano per la solita assenza di numeri e cifre su cui ragionare, ma nessuno ha la forza di opporsi davvero, prevale la rassegnazione. Per dire del clima, quando le agenzie iniziano a battere alcuni flash con le anticipazioni di quanto andava spiegando il ministro dell'economia, Tremonti durante la riunione sbotta: basta, qui dentro c'è qualcuno con il telefonino acceso. E ha fatto, da buon professore, come se fosse nei banchi della scuola, ha fatto ritirare i cellulari di tutti i ministri. Accidenti, sto Tremonti, non solo taglia, fa ritirare alle riunioni via i cellulari a tutti, se no comunicate con l'esterno. La linea tremontiana, sentite per esempio cosa racconta il Messaggero con Marco Conti: addirittura sarebbe questo virgolettato di Berlusconi, questa non è la manovra che volevo, non mi piace, è inutile che dici che è stata rifatta, è piena di provvedimenti che lui stesso fa tempo fa biasimava, ci mancava solo la social card. Così sarebbe sbottato Berlusconi con Bonaiuti, che cercava di spiegarle insieme a Gianni Letta a difendere l'operato di Tremonti, con Berlusconi che avrebbe detto: non è la manovra che volevo. E allora il tema economico è la manovra, 24 miliardi. Il tema politico è questo. Anche Libero, con Fosca Bincker, che non fatevi trarre d'inganno, Fosca Bincker altri non è che Franco Bechis, infatti neanche lo stesso nome, insomma, anagrammato. Fosca Bincker o alias Franco Bechis: il primo successo politico di Giulio. Tremonti trova la quadra sulla finanziaria, c'è anche la benedizione della Chiesa, del Presidente della Repubblica, dell'UDC, disinnescata anche la mina Fini, perché gli ha messo in mano Italia e i parlamentari. La vera opposizione a Tremonti è tra i colleghi del governo. Dicevamo le novità riguardanti il redditometro, le scopriamo a pagina 5 del Sole 24 Ore, vale a dire che la manovra riscriverà gli accertamenti sintetici e il redditometro. Scatterà una spia rossa, scrive Marco Mobili, non più quando il reddito accertato risulterà superiore al 25% del reddito dichiarato al fisco, ma quando il reddito accertato risulterà superiore al 20% del reddito dichiarato al fisco. Ecco il restyling del redditometro, che peraltro non si ferma qui. Verrebbe per legge disposto a chiare lettere che gli uffici dell'amministrazione finanziaria che utilizzeranno l'accertamento sintetico o il redditometro saranno obbligati a invitare il contribuente a fornire dati, notizie e tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento di un quinto tra il reddito atteso dal fisco e quello denunciato all'amministrazione. In sostanza, il contraddittorio tra contribuente e fisco diventerà obbligatorio e sarà destinato a sfociare nell'accertamento con adesione. La stretta dunque è sull'evasione fiscale. Oh, c'è anche tutto il capitolo tagli dei politici, perché certo, tagliano tutti, devono tagliare i politici anche. Ebbene, Carmelo Lopapa su Repubblica è sempre molto informato su quello che succede nel palazzo per eccellenza, il Parlamento. Dice che, secondo quanto Repubblica ha in mano su chi sta mettendo appunto il piano di questi tagli, perché attenzione, l'abbiamo detto ieri, il Parlamento come il Quirinale godono di una autonomia che si chiama orrendamente autodichia. Siete andati a scoprire cosa vuol dire su Google autodichia o sul vocabolario. E quindi non è che nella manovra ci può essere scritto i parlamentari si tagliano tot, perché c'è l'autodichia, il Parlamento decide per se stesso. E quindi quello che si può fare è dire: noi tagliamo il 10, voi dovreste tagliare il 10, vedete di adeguarvi a tagliare il 10 o il 5 o il 20 o il 7, quello che è. Ebbene, secondo Repubblica sarebbe un taglio ben al di sopra del 5% voluto da Calderoli. La scure Fini, vedete che quindi sarà Fini, comunque sarà la Camera a decidere, impone una scure del 15% di tagli, che non inciderà solo sull'indennità da 5.000 e rotti euro, ma sulla somma complessiva da 9.400 euro. Dunque saranno ancora tagli più pesanti. Verranno tenuti fuori il rimborso spese da 4.190 euro per i collaboratori, perché guadagnano questo, i parlamentari. 9.500 più 4.100 al mese, fate i conti, insomma sono circa 13.000 lordi. Poi ci saranno strette sulle pensioni, l'innalzamento dell'età pensionistica per gli uomini da 65 a 67 anni, cancellate le baby pensioni, insomma taglieranno anche lì. C'è chi protesta, sentite cosa ha detto il PD, Partito Democratico Maran. Friulano Alessandro Maran, ieri sul suo blog: mia moglie ormai mi chiede perché non lascio perdere. Credo che si vergogni. Ma io l'anno scorso ho dichiarato 122.000 euro, ne ho versati la metà al partito, il direttore della Camera di Commercio del mio paesello, non di Shanghai, guadagna più di me. Insomma, il PD Maran dice: mia moglie si vergogna di quello che guadagno come parlamentare. A Palazzo Chigi tutti con l'autista, il costo 9 milioni di euro. Qui il conto lo fa Il Fatto a pagina 4, Edoardo Di Blasi, un conto che vi risparmio, insomma un po' complicato, ma secondo Il Fatto il costo delle auto blu, che ricordiamo non si sa neanche quante sono in Italia. Il Fatto dice l'ultimo censimento è di 626.000, ma è un censimento che non ha basi scientifiche. Brunetta ha detto: adesso le voglio contare. In realtà in Italia non si sa quante siano. Per Il Fatto sono 9 milioni di euro solo il costo delle auto blu, 9 milioni di euro solo per Palazzo Chigi, per il governo. Vabbè, la manovra alle 9, Oscar Giannino. Tutti i dettagli, quelli che si sapranno prima e poi durante la giornata si sapranno definitivi. Io ho deciso che siccome sono gli aspetti più interessanti della politica che ferve, lo farò tutti i giorni, leggerò le anticipazioni del libro di Bruno Vespa. Ebbene sì, ci sono cascato anch'io, ci casco anch'io, come tutti i giornali. Il libro di Bruno Vespa esce venerdì, ma ogni giorno ci sono anticipazioni di quello che ha detto Berlusconi. Bruno Vespa fa così, scrive i libri e poi il suo marketing fa delle anticipazioni una goccia al giorno. Oggi sono queste, le anticipazioni sono tutte nel libro di Bruno Vespa, che esce venerdì, Nel segno del cavaliere. Si intitola. Allora, Berlusconi ha detto: ha elogiato la moglie, è parsimoniosa e quindi è una donna che sa risparmiare, e tutto il suo patrimonio, 100 milioni di euro, sarà destinato ai nostri figli. Poi ha detto: sono stato operato di cancro, ma forse non dovevo, forse ho sbagliato. E dunque, Silvio, il cancro forse non serviva a operarmi, anche su Libero. E poi, soprattutto, sul Sole 24 Ore, ampio risalto, il conflitto di interessi, mai avuto un conflitto di interessi. Cioè, anche Confalonieri dice che c'è il conflitto di interessi in Italia, Berlusconi ha detto: il conflitto di interessi io non l'ho mai avuto. Mi volete spiegare che interessi avrei avuto da Presidente del Consiglio per favorire il mio gruppo? Cosa avrei fatto per favorirlo? E beh, Vespa dice, non so, la legge Gasparri, per esempio. Al contrario, la legge Gasparri ha aiutato Rupert Murdoch. Berlusconi mai avuto un conflitto di interesse, l'ha detto a Bruno Vespa. In primo piano. Un altro protagonista politico sembra diventato oggi un attore, Elio Germano, che, complimenti, ha vinto un premio a Cannes e che nella sua dedica, nel suo breve discorso sul palco a Cannes, ha detto sostanzialmente: dedico questo premio all'Italia che è migliore della sua classe dirigente. Si è scatenato un putiferio. Oggi viene intervistato un po' qua e là sul Messaggero. Germano, talento semplice, sono un attore non un eroe. Il Fatto, Elio Germano, siamo al partito unico. Sul Corriere, Germano e Cannes, da Bondi niente auguri. Beh, Bondi non è neanche andato a Cannes, sapete, la polemica con Dracula della Guzzanti. Ho ricevuto sms e telefonate da chiunque, dice Elio Germani, perfino compagni di scuola che non sentivo dai tempi del liceo, il mio tappezziere, vicini di casa, tutti tranne Bondi. Pazienza, ce la farò a superare anche questa. C'è da dire che però Germano è un po' contraddittorio in questo, perché in altre interviste dice hanno dichiarato su di me, contro di me, il ministro Gelmini, il sottosegretario Giro, ma non hanno niente da fare? Non hanno nulla di meglio da fare? Non dovrebbero occuparsi di altro dei ministri della Repubblica? Come? Da una parte dice Bondi non mi ha mandato neanche un messaggio di apprezzamento, dall'altra parte gli elogi si possono fare, le critiche no. Comunque, Elio Germano oggi è il protagonista. Lui dice: io non ho fatto un discorso di destra e sinistra, anche con la sinistra al governo avrei detto la stessa cosa, perché anche la sinistra, anche i sindacati si sono allontanati dalla gente comune. Insomma, il senso del mio intervento è questo: la distanza cittadini istituzioni ormai si è fatta enorme. Su questo forse possiamo concordare un po' tutti, no? Vabbè, prendiamoci una giornata di pausa per la questione intercettazioni, ce ne siamo occupati ieri. Pare che ormai sia possibile un cambiamento della legge, un ammorbidimento dopo anche la grande campagna di stampa con tanti direttori uniti, praticamente la quasi totalità della stampa trasversale, destra, sinistra, a dire questa legge è sbagliata. E concentriamoci invece sul tema del nostro sondaggio, che trova ampio spazio sui giornali: la scuola. Il senatore Costa, che sarà nostro ospite del PDL, ha fatto una proposta: la scuola inizi dopo il 30 settembre, insomma a ottobre, come negli anni 60. Il ministro Gelmini ha detto: perché no, si potrebbe rilanciare così il turismo in un mese come quello di settembre. Subito il dibattito: scuola a ottobre come 40 anni fa, Gelmini si può fare, la Lega mai. Il tema è: sì, si serve sicuramente per rilanciare il turismo. D'altra parte i genitori dicono: e i bambini che facciamo? Dove li teniamo? Chi ce li tiene i figli nel mese di settembre quando torniamo a lavorare? C'è chi ricorda quelle lunghe estati in colonia al mare coi compiti infiniti, come Chiara Saraceno. La Prestigiacomo, il ministro Prestigiacomo, a pagina 11 della stampa fa un'intervista, dice: meglio lasciare com'è adesso. È vero. Si può rilanciare il turismo, io sono siciliana, però il problema è riuscire a permettere alle famiglie di organizzare le ferie, il lavoro, la gestione dei figli durante le vacanze. C'è su Repubblica Renato Corbella, il presidente della STOI, vale a dire l'associazione confindustriale dei tour operator, che dice: non dico sì o no, però è una cosa, è una provocazione interessante, si può discutere per rilanciare il turismo. Lo fece, io ricordo, anche qualche anno fa anche Francesco Rutelli, in quel caso disse: entriamo pure a settembre, ma facciamo le vacanze d'inverno un po' più lunghe, in modo anche qui da rilanciare il turismo. In Friuli Venezia Giulia mi risulta dal 2011 che metteranno una settimana obbligatoria per tutti di pausa per andare a fare immagino una settimana bianca sulla neve. Insomma, il tema c'è, è molto interessante. Francesco Merlo su Repubblica è molto duro, chiama la Gelmini Nostra Signora dei Grembiulini, e che dice, scrive Merlo: ormai gli italiani hanno capito che la Gelmini ha una sola ossessione: tagliare, contabilizzare, chiudere e insieme con l'agitatissimo Brunetta umiliare e cacciare via addirittura. È infatti evidente che spostando l'inizio delle elezioni a ottobre lo Stato risparmierebbe un mese di stipendi ai precari, che per la ministra sono come la Comune di Parigi o la moneta di Allende, le ultime roccaforti del potere sindacale della sinistra miserabile. Insomma, il tema c'è. Che ne pensate? A scuola a ottobre invece che a settembre? Votate su radio24.it e poi ne parleremo alle 8.30. Le segnalazioni conclusive. Io devo chiudere. Guardo Peter che no, non si è addormentato, tra un minuto. Sono questa: Zuckerberg, colui che ha inventato, uno dei due che ha inventato Facebook, ha scritto al Washington Post dicendo: forse sulla privacy abbiamo esagerato, forse abbiamo sbagliato, abbiamo preso la strada sbagliata, nelle prossime settimane introdurremo nel nostro sistema nuovi strumenti di tutela della privacy assai più semplici da usare. Che ha fatto un mea culpa? No, attenzione, perché lunedì prossimo, il 31 maggio, è stata proclamata da molti come la data per uscire in massa, cancellarsi in massa da Facebook in polemica contro la mancanza di tutela della privacy. Che farete voi? Vi cancellerete? Allora Zuckerberg ha detto: sì, forse abbiamo sbagliato. Ha preso una pagina del Washington Post, ha scritto una lettera, ha detto: dobbiamo apportare dei correttivi. Mea culpa oppure intervento calcolato per non perdere persone? Chiudo con la Gazzetta dello Sport, il titolo di apertura, perché è uno scoop in realtà anticipato da Libero da qualche giorno, ma la Gazzetta lo dà quasi per certo: Milan a tutto gas. Eh sì, io cito la Gazzetta perché parlano della mia squadra. È quasi certo, Berlusconi starebbe per vendere ai russi della Gazprom il 25-30% del Milan, in cambio di 180 milioni di euro. Colpo di scena in via Turati. Da Milan rosso-nero a Milan russo-nero. Sono le 8:18 minuti, eccoci qua, siamo con la nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci Deborah, hai preparato il colbacco? Sì, tutti allo stadio col colbacco. Sono di un'altra squadra, non posso presentarmi con quel colbacco là. Perché al Milan arrivano i russi. Tu piuttosto dove hai parcheggiato il motorino? No, sono in macchina. Ecco perché dobbiamo. Hai raccontato quello che è successo in Piazza San Babila? Ah, sì. C'è una foto sul Corriere di uno che voleva andare a prendere il motorino, c'è un'arnia praticamente, c'è stata un'invasione di api. Il motorino introvabile lì sotto praticamente. Invasione di api nel centro magari, di Milano. Magari insomma una cosa molto divertente, non tanto per il proprietario del motorino. No. Allora, noi stamattina parliamo di tutt'altro a Soldi e Dintorni, parliamo del giudice di pace. Allora, ricordate, forse qualcuno di voi lo ricorderà, che l'estate scorsa, nel luglio del 2009, abbiamo avuto ospite nella nostra trasmissione Salvadanaio il segretario dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace per raccontarci lo sciopero che tennero per una settimana contro la riforma del codice di procedura civile, perché la categoria protestava contro la mancata riforma della giustizia di pace, contro le inefficienze degli uffici, carenza del personale enorme e infine l'irrazionale, così lo definirono, definirono distribuzione dei giudici sul territorio. A Roma, per esempio, l'ufficio dei giudici di pace è praticamente prossimo alla paralisi, lo si denuncia da tempo, in altri uffici appunto dislocati in altre località d'Italia regna davvero il caos più totale. Cosa si sta facendo per risolvere questa situazione, oltre alla discussione e oltre allo sciopero della scorsa estate? Per esempio, proprio ieri è partito il nuovo servizio telematico di preiscrizione online per i ricorsi al giudice di pace, dopo un periodo peraltro di rodaggio che ha già riguardato alcuni uffici. Allora, che cosa cambia, a cosa serve questo nuovo servizio? Stamattina lo chiediamo al collega del Sole 24 Ore, che ieri ha scritto lungamente sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore su questo tema, Andrea Maria Candidi. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Ci senti? Eccoci qua, tutto bene? Allora, partiamo con un tema abbastanza singolare per Soldi e Dintorni, però qualche volta fare ricorso al giudice di pace ci permette anche di risparmiare delle grane legali non indifferenti, per cui intanto ti chiedo in che cosa è consistito questo periodo di rodaggio che hai descritto sul Sole. Beh, nella prova sostanzialmente presso alcuni uffici, tra cui uffici molto grandi come quello di Roma, una sorta di preallarme a tutti i cittadini e gli avvocati: guardate che potete utilizzare questo sistema. E di che cosa si tratta? Si tratta semplicemente di fare ricorso anziché andare in cancelleria, e quindi nel caso di alcuni uffici significherebbe anche alzarsi la mattina alle 4, alle 5 del mattino. È stato così per Roma per moltissimo tempo, ora non più, mi dicono. E invece tu oggi puoi, tu, perché anche il cittadino può presentare un ricorso al giudice di pace, può farlo tranquillamente da casa. Ovviamente non si tratta di ricorsi per tutte le materie, certo, ma per la gran parte. Allora, quindi è una sorta di acquisizione, diciamo, della priorità dell'esame del ricorso, perché forse va specificato questo punto, ci si può prescrivere, allora, ecco. Esattamente, non si tratta di un'iscrizione vera, è il problema della preiscrizione, cioè tu ti colleghi con il tuo computer, vai sul sito del Ministero della Giustizia, nella parte dei servizi online, accedi al servizio per i giudici di pace, selezioni il tuo ufficio, per il momento ne sono collegati 200, consideriamo che complessivamente gli uffici di giudici pace sono circa 800, quindi diciamo che è un quarto del territorio già coperto, ma a breve dovrebbe essere coperto interamente. Quindi tu vai sul sito, selezioni il tuo ufficio e ti appare una schermata con tutti i form, come si chiamano, dove devi mettere tutti i dati, i tuoi dati, ovviamente i dati, nel caso per esempio di un decreto ingiuntivo anche il dato della controparte, della persona, del soggetto dal quale tu devi avere indietro una somma o un bene. E allora questo è sostanzialmente. Dopodiché, sì. No, sì. Tra l'altro ci interessava anche capire, per esempio, che tipo di risparmio in termini di tempo ci produce questa nuova procedura. Beh, allora, il risparmio è soprattutto nel fatto che alla fine della procedura online il sistema ti rilascia un codice a barre, per cui è necessario che collegare anche una stampante, perché poi con questo codice a barre ti dà l'opportunità di perché poi tu devi comunque presentarlo in cancelleria il tuo ricorso vero e proprio, soltanto che con il codice a barre è una corsia preferenziale, quindi eviti quelle code di cui parlavamo all'inizio. Consideriamo anche un'altra cosa, che il sistema, cioè che il nuovo meccanismo non ti dà solo la possibilità di fare la preiscrizione, ma anche di controllare da casa, e questa forse è la novità più importante, lo stato del tuo ricorso. Allora, sì, Andrea. No, stavo pensando magari di ridare anche un po' di indicazione ai nostri ascoltatori su quelli che possono essere i ricorsi che si possono fare al giudice di pace, specificando quali possono adottare questa corsia preferenziale, diciamo, per una sorta di preesame, perché poi ovviamente qualche materia è esclusa dalla competenza del giudice di pace, quindi su quali casi possiamo suggerire di adottare questa strada. Ad esempio, noi diciamo affrontiamo sempre il tema delle multe. Per cui ci si rivolge al giudice di pace, cioè per fare il ricorso contro la multa per un'infrazione al codice della strada. Quindi quella è la materia principale per cui si può fare ricorso. Dopodiché è possibile fare la prescrizione, chiedo scusa. Dopodiché è possibile fare la stessa prescrizione anche per i decreti ingiuntivi, sebbene lì l'impatto sia di minor forza, perché i decreti ingiuntivi, i giudici di pace sono competenti per i decreti ingiuntivi, ma fino a una, adesso non mi ricordo se fino a 2000 euro, quindi di conseguenza si tratta di una mole di ricorsi sicuramente più bassa, mentre le circa saranno tra 800.000 e 1.000.000 l'anno i ricorsi che i cittadini, anche tramite gli avvocati, presentano contro le multe al codice della strada. Ecco, un'ultima consideriamo che c'è la possibilità che il cittadino stesso faccia ricorso, perché appunto, per esempio, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi, fino a 516 euro non c'è bisogno della consulenza dell'avvocato, mentre per le opposizioni a sanzioni amministrative, non c'è, quindi comunque l'infrazione al codice della strada, non c'è assolutamente la necessità che ci sia un avvocato. Allora, in sostanza, sì. Casa, abbiamo dato, come dire, tutte le indicazioni. Quando il tuo motorino a Piazza San Barbara fai le tue solite infrazioni, puoi ricorrere, presentare questo ricorso direttamente. Che aspettative ci sono intorno a questo nuovo servizio, Andrea? Insomma, di alleggerire molto l'ingombro degli uffici dei giudici di pace? Guarda, consideriamo una cosa. Io, quando c'è stata la riforma del processo civile l'anno scorso, quindi parliamo di luglio del 2009, andai subito dopo, appena entrata in vigore, a fare un giro con alcuni uffici di giudice di pace. Uno di questi era quello di Roma, dove non vi sto qui a dire com'era la situazione, veramente gente che faceva, colleghi, cittadini, avvocati, insomma di tutto, che faceva queste code interminabili a partire dalle 6 del mattino per presentare il ricorso, quindi per iscrivere il ricorso, per avere poi l'accesso all'ufficio del giudice di pace. Oggi mi dicono, non sono andato io, ma è andata la collega che con me ha firmato il servizio, Serena Riselli, lei è andata, la situazione è completamente cambiata, buona perché è stato finalmente trovato un coordinatore, che per molto tempo non c'aveva il coordinatore del giudice di pace, lo figlio di Roma, e vuoi anche perché cominciano a funzionare questi meccanismi, e infatti questi servizi. Andrea, io devo salutarti, ti ringrazio per le tue informazioni, per chi ne volesse sapere qualcosa di più deve recuperare Il Sole delle 24 ore di ieri, ma in ogni caso ci si può collegare anche sul sito del Ministero della Giustizia, come giustamente Andrea indicava, e quindi ritrovare tutte le informazioni su questa nuova procedura per i ricorsi al giudice di pace. Grazie, buona giornata. A presto, ciao. Andrea, ciao. A Salva Danaio oggi chiudiamo la stagione della dichiarazione dei redditi, Alessandro, perché veramente non ne possiamo più. Unico 2010, quindi anch'io. Chiudiamo 7.30 e vediamo un po' su Unico 2010 i titolari di partita IVA, per esempio, come devono comportarsi. Ti svelerò che ho fatto un errore, ma ho subito chiamato. Beh. Mi sono dimenticato di mettere il 7.30 nella busta. Una roba da niente, insomma, ma santo, cioè, mi alzo e me ne vado. Non dire nulla. Allora, parliamo di scuola. La proposta di un senatore: non si torni più a settembre, ma a ottobre si torni sui banchi scolastici, come negli anni 60. Che ne pensate? È giusto? Siete d'accordo? Questo per rilanciare il turismo anche a settembre. A scuola da ottobre. Radio24.it per votare, bianco o nero nell'home page ci trovate, oppure 800 24 0024 se volete intervenire in diretta. E allora alle 8.34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo di scuola e di una proposta che sta facendo molto discutere. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La proposta è un disegno di legge che prevede l'apertura delle scuole non più a settembre, ma dopo il 30 settembre, sostanzialmente a ottobre, come tanti anni fa, come negli anni 60. Apriamo le scuole più tardi, in modo che così la stagione turistica, anche a settembre, si allunga. Sviluppiamo il turismo, favoriamo il turismo. Che ne pensate? Su radio24.it siete d'accordo? C'è da dire che per ora prevalgono i no. Non è forse una buona notizia, l'80% per il senatore Giuseppe Rosario Costa, che saluto. Senatore, buongiorno. Rosario Giorgio, buongiorno. Senatore buongiorno, del Popolo buongiorno. Della Libertà. Lei ha presentato questo disegno di legge, 17 parole. Beh, intanto, almeno complimenti per questo. Nelle leggi fiume, breve, conciso e compendioso. Per le scuole di ogni ordine e grado, l'anno scolastico ha inizio dopo il 30 settembre. 17 parole. E perché l'ha fatto? Che vuole favorire il turismo? Le istanze e le aspettative di chi ha interesse a questo argomento, che non soltanto il mondo degli operatori economici, vale a dire degli albergatori, degli esercenti stabilimenti balneari, degli esercenti attività di impresa per il tempo libero in generale, ma anche delle famiglie che vivono più segnatamente nel mezzogiorno d'Italia, dove evidentemente la disoccupazione raggiunge livelli notevolissimi e dove si vede che al primo di settembre si chiudono gli ombrelloni, si spengono gli alberghi e si chiude ogni attività di impresa, nonostante la notevole propensione a continuarla, solché si inizi l'anno scolastico, ha indotto me, non solo in questa legislatura, ma anche in una legislatura passata, a presentare un disegno di legge similare. Senta, ora, quindi è una questione... Non è quella di fare dispiacere a nessuno, quanto quella di metterci nelle condizioni di dire: se è vero, gli svolgiamo ogni migliore azione per la destagionalizzazione, beh, insomma, poi strozzare la spontanea destagionalizzazione che va al di là del 31 di agosto è veramente un peccato. Però, senatore Costa, il motivo mi sembra molto poco pedagogico al momento e molto economico, il che non c'è nulla di male. Non è esatto, perché il disegno, la proposta, la norma non tende a ridurre l'anno scolastico, tende a farlo iniziare dopo, dove sta scritto che non deve finire anche dopo, considerato che le attività alle quali io faccio riferimento nel mese di giugno, e più segnatamente nella prima decade, nella seconda di giugno, non vengono per nulla esercitate, e allora non ci sarebbe disagio di sorta, nemmeno per le famiglie, né disagio dal punto di vista pedagogico, perché il numero dei giorni e delle ore non si ridurrebbe. Questo è sì. Una logica di flessibilità correlativamente alle diverse regioni d'Italia, è evidente che nel nord d'Italia, dove hanno interesse alle ferie invernali, perché ci sono gli sport invernali, potrebbero pure iniziare il primo di settembre, ma nel mezzogiorno, laddove fino al 30 di settembre è certo che le temperature sono di 30 e 35 gradi e il rendimento dei ragazzi è pure basso, e comunque lì si inizia a ottobre, superiori al mese dei primi 20 giorni di giugno, si potrebbe fare una flessibilità diversa. Senatore Costa, l'opposizione che troverà oggi sui giornali, ha scatenato un dibattito, anche il ministro Gelmini ha detto perché no, l'opposizione più forte che troverà è questa, e già, e i figli dove li mettiamo a settembre? Dove li mettiamo nel periodo in cui si chiude l'anno scolastico e non sono ancora iniziate le ferie? Nel mese di giugno, che forse quando si chiude l'anno scolastico non c'è il problema dei figli? Lo stesso problema per quei giorni, anziché essere di settembre diventa di giugno. Cioè lei dice a giugno si va a scuola ma si inizia dopo, cioè si va tutto certo. Giugno a scuola, quindi il problema tutto a giugno. Le giornate si perdono a settembre e si fanno a giugno. Quindi il lasso di tempo è sempre 2-3 mesi. Vabbè, bisognerebbe cambiare tutto. Perché tenga conto, se lei va nelle stazioni turistiche estive, quali sono quelle di tutto il Mezzogiorno d'Italia, che ha il 30% di disoccupazione, lei non è che trova, prima che si chiudano gli anni, gli esami di maturità e di abilitazione, lei non è che trova molta gente, perché l'andamento dell'anno scolastico segna sensibilmente l'andamento delle ferie. Però senatore, mi scusi, bisognerebbe cambiare tutto anche il sistema produttivo, le grandi aziende che chiudono ad agosto, 3 settimane, che facciamo? Facciamo... Cambia il divenire dell'anno scolastico, condiziona anche le grandi aziende. Cambiamo tutto, va bene. Ma che puoi cambiare? Per legge non puoi fissare. No, chiaro, però quello che può fissare lo Stato. Tutto ci si adeguerebbe a quello. Comunque, senatore, resti con noi. Io voglio salutare, la stanno ascoltando, Silvia Ballestra, buongiorno, giornalista e scrittrice. Ballestra, buongiorno. Ci sente? Sì, eccoci qua. Qui. Saluto anche il professor Fulvio Scaparro, che è psicoterapeuta. Buongiorno professore. Buongiorno. Silvia Ballestra, partirei da lei, perché ieri lei sull'unità è stata molto dura, parafrasando anche quello che ha detto Bersani, che diciamolo chiaramente, ha detto la Gelmini, gli eroi sono gli insegnanti, mentre la Gelmini rompe a loro i coglioni, così ha detto testuale. Esattamente. Lei ha detto una calibrata e molto azzeccata definizione, rompi i coglioni, insomma ha rincarato la dose addirittura. No, non ho rincarato, ho semplicemente commentato le parole del segretario, non ho rincarato, ho anche elencato insomma i motivi per cui questa affermazione appunto è veritiera, cioè volevo anche commentare appunto questa indignazione rispetto all'offesa alla donna Gelmini, quindi insomma il mio commento era sul fatto che se qualcuno in questo momento sta offendendo e anche danneggiando le donne è proprio la ministra Gelmini, perché con quello che sta facendo la scuola italiana non solo danneggia i bambini ma anche soprattutto le mamme che vengono chiamate in causa, perché il vero argomento di cui bisognerebbe discutere in questi giorni a proposito di scuola è l'attacco al tempo pieno. Per un anno ci è stato assicurato il tempo pieno non sarebbe stato toccato e invece quest'anno, eccoci qua, ci sono dei fortissimi tagli all'organico delle maestre, per cui il tempo pieno non è affatto assicurato a settembre, anzi alcune classi già non ce l'hanno più. E allora l'apertura del ministro a questa proposta di legge del senatore Costa, che ne pensa? Senatore Costa ci ha spiegato che in realtà si andrebbe a scuola ad ottobre ma si finirebbe più tardi, quindi insomma il lasso di tempo in cui badare ai figli, che è un problema che abbiamo tutti quando non si va a scuola, è lo stesso sostanzialmente. Lei Ballestra che dice? Ma sì, per forza, anche perché non si può chiudere la scuola per un mese, altrimenti no, ci sarebbe il sospetto che la scuola è fallita e chiudiamo per un mese per risparmiare quel mese lì, per esempio con gli stipendi dei precari, perché il sospetto a me mi è venuto, perché la proposta era alquanto strampalata, però in realtà io lo sapevo, cioè se tu togli a settembre poi prenderai da giugno, perché le ore devono essere quelle lì, però di fatto è già così in alcune parti d'Italia, perché il calendario scolastico è flessibile proprio in funzione del diverso clima, delle diverse esigenze delle varie regioni, per cui, per come l'ha spiegato il senatore Costa, in realtà è una cosa diretta, mi pare, alle famiglie del sud, quindi il nord e si porta in spiaggia al sud, giusto? Questo sì, insomma, poi c'è l'autonomia scolastica. Le famiglie non vanno in albergo, però le famiglie del sud abitano già lì, quindi... C'è anche l'autonomia scolastica poi nei calendari, ma insomma ha suscitato un grande dibattito. Io, professor Scaparro, vorrei coinvolgere dal punto di vista insomma educativo, lei che ne pensa? Insomma, lei in passato mi pare che abbia detto anzi si sta troppo in vacanza, bisognerebbe accorciare i tempi e così. Sì, queste sono le sintesi dei giornali, io la penso in questa maniera, fermo restando che appunto sono d'accordo sulla flessibilità i tempi dettati da esigenze locali eccetera, questo mi sembra una cosa sacrosanta. Quello che non riesco a capire è che da ogni volta che cambia ministro della pubblica istruzione, ogni volta c'è tutta una scarica di annunci di ogni genere che poi durano quanto dura la presenza del ministro in carica. Io penso che questo scuota e renda insicuri i lavoratori della scuola, i genitori, che ogni volta si sentono bombardati da proposte di vario genere più o meno fondate. Questa è l'ultima, stiamo parlandone oggi, posso scommettere che tra qualche mese riparleremo ancora di qualche altro annuncio di questo genere. Non si può mandare avanti una scuola, una cosa così importante come la scuola, con annunci. Io credo che la nostra scuola, la scuola pubblica, abbia bisogno di ben altri interventi che non siano questi. Per quanto riguarda le vacanze, gli stacchi troppo lunghi sono difficili da gestire. Io penso che la scuola non è nata per dare una mano al turismo, ma ha una sua funzione che è indipendente da altri aspetti. Certamente è ben legata all'economia, è ben legata anche al turismo, ma non è questo il suo obiettivo. Il suo obiettivo è quello di formare gli allievi, di avere personale ben preparato e se possibile ben remunerato, un tipo di lavoro sicuro per gli insegnanti e sicuro, e si ripeto, con molte caratteristiche che in questo momento non sono rispettate. Ma quello che mi interessa è pensare anche che esistono le famiglie, alle quali noi non possiamo obbligare a dire quest'anno i ragazzi saranno a spasso per 3 mesi o 2 mesi o quello che sarà, ma noi abbiamo un'idea forse delle famiglie un po' strana. Non è che avendo i bambini a casa noi abbiamo a disposizione il campo da golf piuttosto che ne so, le spiagge di Malindi o da altre parti. C'è il problema pratico di che fare tutti i giorni. Il problema pratico è quello che dobbiamo affrontare. Secondo la mia opinione, io credo che occorrerebbe alternare più spesso studio e riposo. Quindi se c'è da fare, da inserire dei periodi di vacanza, io penso, sono favorevole per esempio a inserirli nel corso dell'anno. E questo può anche essere una cosa positiva per il turismo, ma non è esattamente quello che mi pongo come problema. Il mio problema è quello di alternare studio e periodi, diciamo, di vacanza. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, rimangono sempre al 70% i no a questa proposta del senatore Costa. Intanto sentiamo che ne pensa Silvia da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Spenga gentilmente la radio e dica. Sì, allora io volevo dire che sono totalmente contraria a questa proposta. Forse potrebbe essere accettabile dopo aver valutato la possibilità di rivoluzionare proprio il sistema industriale. Sì, il senatore Costa dice fatta così a settembre, voglio dire, ce li tiene lui i bambini. Il senatore Costa dice andranno 1.500 euro al mese e una scuola privata che non ti costa meno di 500 euro al mese, ce li tiene lui i bambini. Il senatore Costa dice il problema sarebbe spostato solo da giugno a settembre, però effettivamente il sistema produttivo quello è. Però lei dice, senatore Costa, viene a ruota il sistema produttivo. È un po' ambiziosa questa cosa, no? Nel dire le grandi fabbriche si chiuderanno non più ad agosto, ma chiuderanno a settembre. Che faranno? Non so, ad agosto e settembre, non lo so. Senatore. Guardi, dottore, a me sembra che questo argomento, per così come è posto bene, nel senso che è posto in seno al Parlamento. In Italia le leggi le fa il Parlamento o gli orientamenti legislativi. Con tutto il rispetto che si possa avere per le singole opinioni, vi compreso la mia, io per esempio non mi impicco alla mia opinione, però ho motivo di ritenere che per poter quotare i pareri favorevoli e i pareri contrari si debba andare nelle sedi competenti che non fossero quelle estranee, perché sennò altrimenti si vanno ad intervistare 10 imprenditori che ti dicono tutti un parere diverso da quello pur rispettabilissimo della singola signora che evidentemente vabbè, è un la singola valore. Signora però dire, quando lei dice il 70% per fare il 70% nostro bisogna ponderarlo, ma di quelli che votano da noi a Radio 24.it non li traduciamo mica in voti perciò voglio dire evidentemente si tratta del 70%. 50% che non è ponderato. Vabbè. Per poter ponderare bisognerebbe, lei faccia 30 domande o 70 domande o 100 domande. Vabbè. Nel Mezzogiorno d'Italia si troverà. Guardi, non la, 100, no, ma non si, non si senta messo in discussione. Ogni giorno facciamo un sondaggio, la gente vota, clicca, non c'è nulla di scientifico, non c'è nulla di politico soprattutto, senatore. Sono pareri dei nostri ascoltatori che per noi sono il sale, come Giovanni da Milano. Sale Giovanni, dica. Buongiorno a tutti. Senta, niente, per me questa è l'ennesima conferma che i nostri politici sono ad anni luce dal mondo reale, no? Adesso non esageri, perché è una proposta. No, ma però voglio dire, non siamo più negli anni 60. Adesso, ahimè, abbiamo una situazione sociale per cui moglie e marito lavorano, già fanno i salti mortali per gestirsi i figli durante l'estate. Sì, però Giovanni, torniamo. Però Giovanni, mi scusi, un punto che il senatore Costa ha specificato è che non è che diventerebbe di 3 mesi e mezzo lo spazio, cioè si va a giugno, tutto giugno, che ne so, a scuola, e si parte dopo. Cioè non è che aumentano, non è che per 4 mesi uno non sa dove mettere il figlio. Lo spazio rimane sempre quello, no? Nell'idea. Sì, perché sì, i giorni scolastici sono sempre 200 almeno. Io adesso non ho sentito l'inizio della trasmissione, però da allora di fatto di cosa stiamo parlando? Di spostare 15 giorni dalla fine di giugno all'inizio di... Si tratta di spostare perché a settembre al sud fa caldo e quindi le industrie del commercio possono rimanere aperte, si possono fare le vacanze a settembre. Ma questo mi corregga, ma mi sembra sia già possibile, no? È già in capo alle regioni la possibilità di decidere se fare... Sì, questo sì, differenziati, però... quindi in Trentino si faranno 3 settimane, andranno a sciare a Natale. Ho capito, ma se ritengono... Ho capito, ma se uno della Lombardia vuole andare in vacanza in Sicilia a settembre, se inizia in Lombardia la scuola, comunque, insomma, vabbè. Ci siamo capiti. Lei non è d'accordo, Giovanni. Vorrei tornare da Silvia Ballesta. Silvia Ballesta, perché lei è così critica con la Gelmini, addirittura a dire ce l'ha con le donne, è la vera rovina delle donne e della scuola? Allora, per esempio, perché tagliando il tempo, intanto perché i tagli alle maestre, che sono per la maggior parte donne, vengono fatte quindi contro un lavoro tipicamente femminile e quindi riguarda le donne, e questo è uno e direi che è il principale motivo, attacca il lavoro delle donne con dei tagli sanguinosi e sappiamo bene quali sono le cifre. Io prima l'ho detto, stanno tagliando l'organico e per quanto riguarda la scuola dei miei figli riguarderà 4 maestre su 70, siamo più che... al 5%, quindi l'ho già detto, il tempo pieno salterà nonostante le rassicurazioni, quindi anche un po' le menzogne appunto. Vedremo a settembre. Vedremo a settembre, no, anche fra un paio di settimane, perché gli organici verranno resi noti fra 2 settimane e questo è l'annuncio. E uno, due, questo va contro le mamme, perché alla fine se i bambini stanno a casa sappiamo benissimo che non sono i papà a occuparsene ma sono le mamme. La cosa che trovo veramente straordinaria, quasi comica, è che a questa proposta del senatore Costa non ci crede nemmeno lui, cioè è la terza volta che la fa ed è stupidissimo che quest'anno se ne parli e se ne discuta. Il ministro del turismo Brambilla ha dichiarato che è impraticabile, cioè lo stesso ministro del turismo che dovrebbe, no, fare festa e giovarsene. Quindi l'unica che ci ha, che è un po' abboccato a questa cosa è proprio il nostro ministro delle istruzioni. Senta, però le chiedo, lei da donna, sinceramente, e anche da donna di sinistra, non ha trovato un po' disagio nel vedere se il suo segretario, so, Bersani, definirla rompicoglioni? No, io sono stata contentissima. Addirittura. Ho detto, beh, era ora forse che qualcuno parlasse chiaro, perché appunto i discorsi sono sempre molto fumosi. E poi Bersani ha detto una cosa molto chiara, cioè non era così appiccata, campata per aria, ha parlato dell'eroismo di alcuni maestri nei quartieri difficili delle città che fanno i salti mortali per tenere i bambini a scuola. E a questo ha contrapposto un'opera quotidiana di smantellamento della scuola pubblica. Poi io nel mio pezzo ieri elencavo anche quello che viene richiesto alle famiglie, quindi non solo alle donne ma anche ai papà, ai genitori, andare a imbiancare la scuola, portare il materiale scolastico perché la scuola non provvede, inventarsi iniziative per pagare le bollette che il ministero non paga, cioè noi stiamo già facendo tutto. Sa, ma non ci sono grandi soldi, no? Sa che c'è anche questa manovra in atto. Bisogna andare a prenderli, ci sono tanti altri modi. Non lo so, sentiamo Diego da Udine, buongiorno, che ne pensa? Allora, buongiorno. Lei è? Io sono, faccio l'imprenditore, sono favorevole alla proposta, nel senso che mi sembra... Oh, vede, senatore Costa, è favorevole, Diego, dica. Sì, ma lo favorevole perché? Intelligente, perché in un paese che tende sempre più a fare, a distinguere le diversità che esistono, cercare di creare qualche proposta che muove la stagnazione generale, certo che ogni tipo di riforma o di grande... chiamiamo così sconvolgimento, provo che immediata è fortissima. Però io mi ricordo che da ragazzino andavo sempre a scuola, dopo le vendemmie, noi in Friuli facciamo tanto vino e quindi era un momento fantastico per godere anche di un momento non solo di vacanza, ma anche della... Tanto vino e dell'ottimo vino. Senta Diego, ma è vero che dal 2011 a Udine ci saranno le settimane bianche nelle scuole? Questa è un'altra cosa brillante di un sistema autonomo come la nostra regione, cioè che dice spezziamo la continuità invernale creando le condizioni per una settimana di vacanza piena e diciamo così contemporanea, in modo tale che si possa non solo fare vacanza ma anche recuperare alcuni momenti familiari che spesso d'inverno si perdono. Però il posticipare, cioè giugno, è il mese più perso in assoluto, perché mio figlio ha fatto la maturità 2 anni fa, è chiaro che noi siamo rimasti tutti quanti in attesa di questa benedetta maturità, che poi è programmata, può arrivare fino a tardissimo di giugno, addirittura a luglio. Quindi è un mese morto in cui si cerca di mandare i bambini a centri vacanze, si cercano soluzioni. Insomma, lei dice è una scelta intelligente. Va bene, io concludo con lei ringraziando il senatore Costa, Fulvio Scaparro, Silvia Ballestra per essere stati con noi. Continuate a votare su Radio24.it. In redazione Sara Sprefico e anche oggi Gaia Romani. Grazie, così come Peter Bescapè in regia. Do la linea Oscar Giannino. Oscar Giannino parla della manovra. È il giorno della manovra. Noi ci troviamo domattina.